La verge di Luigi fuori, per favore. Mi senti meglio, Francia? Andiamo a sinistra. Allo stop a sinistra. Sinistra, sinistra. Mi sente? Signorina, sinistra. Prova 1-2, mi sente? No. Vado un po' più avanti. Mi senti? Bolla dell'algida. Bolla dell'algida. E io sto aspettando sul volume, era troppo alto. Il telefonino, così. Perfetto. E come dici, come mi ricevi di radio? Perfetto. Luca! Cappa, ti ascolto bassissimo, è un po' male. Ho detto che ti ascolto un po' male. 70! Dove sei, Lu? Beh, su. Ui. Ciao, ciao, Fra, buonasera, è bavando. Che c'è? Niente, tu come va? Tutto ok? Già lo credo. Sempre ok. Ti stavo ascoltando Luca di Porto Torres, ma dovrebbe essere in zona negativa. L'ho sentito anch'io, Santiago 5, l'ho ascoltato, sto dicendo molto, molto più forte. Vabbè, sono più vicino. Giallo. Frano, mi ha detto poco fa, dov'era? 70, forse 0,70 lui, Deve andare 446 081 20.25, no? 070. Se no ci sente tipo come se fossimo leggermente fuori. Vabbè, adesso gli faccio una bassa a vedere. Devi mettere come era 25, mi sembra che era il coso. Adesso non me lo ricordo più manco io, figurati tu. Era parecchio tempo che non neanche lo stavo usando questa gente. I parametri non me li ricordo più. Antonello! Miau. Ciucucciu. Luca, puoi uscire un attimo? Anzi no, sei fuori. Luca! Antonello, buon pugno! Chiamati!